Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano iniziale che usiamo come sigla di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine. Il programma inizia alle ore 20 e dura fino alle ore 21:30. Ricordo che appunto in diretta radiofonica oggi 13 febbraio 2025 e la trasmissione funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo così, partiamo subito con la musica, con l'ascolto di alcuni brani di questa band storica californiana, statunitense. Loro erano i True Sound of Liberty, o più comunemente conosciuti come TSOL, e ascoltiamo. so armored, who can take much more? Feel the flash of their will, thunder of crossfire, running into danger, pulling on my strings, fingers on all my problems. I'm going insane, fire seems to live on me. Human places I am seen, there's a noose around my neck, make me fall on their footsteps. Fire is sinking out of control, armored, who can take much more? Feel the flash of their will, thunder of crossfire, running into danger, pulling on my strings, fingers on all my problems. Running into problems, makes me scream and shout. I got no solution, I'm trying to get out. Scrollando i Reels su Instagram non è difficile incappare in video pubblicati dalle varie pagine di polizia o carabinieri, che non vengono più mostrati come gli agenti sorridenti e rassicuranti da fiction italiana, che proteggono gli anziani dalle truffe, salvano gli animali abbandonati in autostrada o riportano un bimbo smarrito alla sua mamma disperata. Al loro posto ci sono i reparti speciali armati ed equipaggiati di tutto punto, impegnati in operazioni spettacolari, tecnologicamente all'avanguardia, con irruzioni, esplosioni e altri scenari estremi. Reels realizzati con notevole impegno, pieni di transizioni e con musica trap in sottofondo. Questo cambiamento appare come un tentativo di rendersi accattivanti agli occhi delle generazioni più giovani, seguendo i trend dei social e mostrando un immaginario da gangster. Lo Stato promuove il proprio braccio armato esaltandone la violenza, che è l'unica legittima e legittimata in questa società. Se abbiamo voluto in questo testo riportare gli esempi scritti sopra è per cercare di avere una visione completa delle strategie che lo Stato sta attuando per abituarci poco a poco ad una militarizzazione sempre maggiore della società in cui viviamo, e perché sappiamo qual è il suo fine. Infatti, se non ci sconvolgeranno più gli annunci radiofonici e televisivi che ci invitano ad arruolarci in questo o quel corpo di aguzzini, se normalizzeremo la presenza dei militari o altre forze dell'ordine in ambienti da cui erano esclusi, se ci faremo abbagliare dalla retorica della patria e della sua difesa che infesta le scuole e i giornali, allora domani saremo anche pronti per combattere per questa patria infame. Ed è questo che lo Stato sta preparando, una popolazione pronta a dire signor sì. Un saluto anche da parte mia. Allora, queste parole che ho appena letto sono tratte da un opuscolo, La guerra chiama, nessuno risponda, un opuscolo curato da Compagna e Compagni di Milano. E così le abbiamo scelte come incipit perché, così, un po' per dare una cornice alla puntata di oggi di Zernis Magnetics. E per chi ha ricevuto la promo c'era questa frase, insomma, così piuttosto lunga, una specie di dichiarazione di intenti in cui dicevamo noi non vogliamo far parte di una società sottomessa che così è attenta, è concentrata alla testa bassa, diciamo, su un dispositivo elettronico luminoso, ma vogliamo guardarci attorno, metterci in mezzo, intercettare gli sguardi, insomma, e le intenzioni delle sorelle, dei fratelli, delle compagne, dei compagni, e lottare ancora. Diciamo che questa frase così ci è servita un po' per fare il punto, diciamo, di quello che vorremmo un po' sviluppare questa sera. E tutto parte da un abbiamo già parlato, insomma, nelle scorse settimane della zona rossa del decreto sicurezza, eccetera, della zona rossa nello specifico a Udine, cioè del fatto che Udine è praticamente un'intera zona rossa nel suo centro storico, ma anche nell'immediata periferia. E è zona rossa, questa zona rossa è stata introdotta a partire dal 16 gennaio. Da quel giorno ci sono stati diversi provvedimenti, insomma, contro diversi DASPO, diverse azioni delle forze di quell'ordine lì, appunto, contro soggetti. E un episodio in particolar modo, diciamo, personalmente mi ha colpita, cioè il primo così intervento di violenza istituzionale è stata quella contro un uomo in stato di ebbrezza, probabilmente in una zona del centro, via Poscolle, il quale è stato fermato, atterrato e fermato con il taser. Di questa azione così di repressiva, particolarmente violenta, circolava un video appunto prodotto da passanti, non si capisce bene chi, ma comunque da passanti che col quel maledetto telefonetto, il maledetto smartphone, hanno filmato la scena, no? E poi è diventata virale, eccetera, appunto. Questo fatto, cioè, oltre il video, tra l'altro nel video si vede che ci sono quattro poliziotti contro una persona sola, quindi insomma tutta questa retorica della persona molesta, super aggressiva, super pericolosa, fa acqua da tutte le parti, perché chiaramente quattro persone armate con i vari dispositivi che hanno loro contro una sola persona, è difficile credere che possano essere sopraffatte. E comunque si vede la scena, insomma, il fatto che la persona viene atterrata a terra, prima inseguita, poi circondata, poi atterrata a terra, appunto, e viene colpito. E sì, oltre a questo discorso, insomma, di questa così di queste delle immagini, insomma, di queste immagini che ti fanno incazzare, perché ti fanno incazzare, perché oltre al fatto in sé, ti fanno incazzare perché queste persone che assistono a queste scene filmano, ma non fanno niente. Cioè filmano come se vivessero in una, come dire, contesto cinematografico, no? In cui tu non sei presente nella realtà, in cui sei presente con il tuo corpo e il tuo intelletto e la tua sensibilità, ma sei in una situazione parallela per cui ti metti a filmare. E appunto da questo un po' questa così dissociazione, alienazione dalla realtà che circonda, che purtroppo si vede sempre più spesso, è stato un po' così il punto di partenza, insomma, per riflettere su questo discorso del si diceva su questa faccenda di una di un dilagare con l'introduzione delle zone rosse. Non che prima della zona rossa non ci fosse una militarizzazione estrema della città, ma con l'introduzione di questo provvedimento del prefetto, proprio si assiste ad un pigiare il piede nell'acceleratore, ad un rialzo di questa spadroneggiare, diciamo, dei militari e dei poliziotti e dei carabinieri, eccetera, e della polizia municipale, eccetera, per le vie della città, per dire scene anche tipo macchine della polizia sul marciapiede, fregandosene altamente del fatto che il marciapiede, di solito sul marciapiede camminano le persone, non ci stanno le auto, che appunto tranquillamente, come in un telefilm americano, appunto, stanno sopra il marciapiede perché devono fermare una persona, magari una persona che non si capisce neanche bene perché la fermano, oppure perché devono fare controlli su un'auto, o perché devono molestare dei ragazzini che sono lì. E il fatto che non si può tollerare, e non è solo il fatto che questa cosa succeda, ma non si può tollerare che questa cosa succeda con disinvoltura e nella così indifferenza delle persone che circolano attorno. E, sì, noi pensiamo che sia importante invece capire dove si va a parare con queste cose e rimanere allerta, cioè rimanere allerta anche per appunto intervenire anche con semplicemente con la presenza, cioè col fatto di essere lì e quindi di non girarsi dall'altra parte nel momento in cui succedono così quelli che sono veri e propri abusi. E, ecco, e niente. Intanto così. Bene, allora volevo anche dire che prima, durante il precedente intervento, in sottofondo abbiamo ascoltato questa una band tedesca, i The Spitz, mentre volevo appunto presentare il disco che stiamo ascoltando, che ascolteremo adesso tra poco un altro brano. Questa è l'ultima uscita di questa band di Forlì, loro sono Le Tormenta e questo è il loro album Le Ombre Più Buie, album comunque uscito nelle scorse ultime 2-3 settimane, anche se è datato 2024, ma io so che è stato un po' un'attesa il fatto di ottenere la stampa del vinile. Comunque loro sono, che sia dell'anno scorso o di adesso, loro sono Le Tormenta, come già detto, dall'album Le Ombre Più Buie. Eccoci che siamo costretti a sfumare questo nuovo album qui delle Tormenta per ritornare in voce. Sono esattamente le 20:30, 17 secondi di giovedì 13 febbraio. Per chi ci ascolta in diretta, streaming o NFM su Radio Onde Furlane, Zardins Magnetics, ennesima puntata in diretta del giovedì sera, appuntamento appunto ultra decennale, spazio così autogestito per diffondere notizie, informazioni, considerazioni, eccetera eccetera, qui a Udine. riferimento a quanto detto da chi mi ha preceduto sulla questione, insomma, della stretta e diciamo dello stato di guerra che è stato messo, diciamo, già in vore, come si dice in friulano, e cioè è stato, diciamo, è una realtà di fatto. In merito a questo verrà, sono a parlarvi, insomma, di questa iniziativa che è stata, che è promossa dall'Assemblea Permanente contro Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste, e che è una presenza solidale con i detenuti, ennesima anche questa, sotto il carcere, fuori dal carcere, fuori dalle mura del carcere di Udine, di via Spalato. Questa iniziativa si terrà il prossimo sabato, dopodomani, sabato 15 febbraio, per chi ci ascolta in replica. L'orario è a partire dalle 15, solita area da cui è facile, insomma, è meno difficile farsi udire dai detenuti, e che si trova in via Ragusa. Quindi, malgrado il fatto che il carcere sia noto, insomma, come via Spalato qui localmente, noi andremo in via Ragusa appunto per questo motivo, che le mura permettono, insomma, è una situazione appunto dove è possibile raggiungere con l'impianto, non rimbalza, ecco, il suono. Vado velocemente, nel senso, senza altre indugi, a leggervi un volantino, insomma, che è stato realizzato, è stato messo, diciamo, posto sul retro della locandina, che trovate, insomma, nel blog Il Rovescio. Contro tutte le galere, no al decreto sicurezza, no alle zone rosse, no allo stato di guerra, ribelliamoci. Presidio solidale con i detenuti sotto il carcere di Udine. Nel carcere di Udine il sovraffollamento ha raggiunto un limite insopportabile. Vi sono rinchiusi 180 detenuti a fronte di una capienza di 90 posti, dei quali ben 57 si trovano nella prima sezione, situata al piano terra, in condizioni di grave degrado ambientale, con umidità, muffa, fili elettrici scoperti, mancanza di tubi di scarico nei lavandini, mancanza di tubi di scarico. Questa sezione è quella dove vengono collocati i nuovi giunti, che vivono il trauma dell'entrata in carcere. I prigionieri che manifestano problemi di disagio mentale o di tossicodipendenza, e dove ci sono le celle di isolamento. Inoltre, all'interno del carcere manca una copertura medica infermieristica sulle 24 ore. Però i lavori di riqualificazione della struttura, tanto sbandierati dai garanti comunali, che si sono succeduti in questi ultimi anni, che prevedono l'allestimento di aule studio, laboratori e una sala polifunzionale uso teatro, vanno avanti. I garanti hanno promosso lo scorso dicembre una marcia silenziosa e non violenta, con tanto di rosa bianca in mano, dal Duomo al carcere, per festeggiare la conclusione dei lavori del polo culturale e didattico e dolersi per il mancato inizio lavori per la prima sezione. Come se questa ennesima negligenza fosse colpa del destino avverso, che è necessario propiziarsi, o di qualche divinità, e non una precisa responsabilità dell'amministrazione penitenziaria e dell'azienda sanitaria locale, che evita di controllare e intervenire sull'area sanitaria. A lavori ultimati, dunque, la società civile di questa società distopica potrà provare l'emozione di andare a teatro dentro le mura del carcere, mentre nelle sezioni I detenuti vivono in condizioni disumane, patiscono maltrattamenti fisici e psicologici, vengono psichiatrizzati attraverso la somministrazione di psicofarmaci e metadone. Il garante regionale, peraltro, Pragmatico, già direttore del carcere di Trieste, non si lagna. Ha la soluzione per risolvere il problema del sovraffollamento: costruire una nuova e moderna struttura carceraria in regione, in modo da realizzare una sorta di bacino di espansione di fronte al flusso non arrestabile di persone detenute. Flusso che non tenderà a crescere nei prossimi mesi e anni, estratto di una sua intervista. Ecco, le persone che vengono imprigionate diventano un flusso. Nei prossimi mesi e anni lo Stato, infatti, attraverso il pacchetto sicurezza, attraverso la creazione di nuovi reati, zone rosse, proliferare dispositivi di controllo, vorrebbe chiudere il cerchio del suo dominio attraverso la guerra ai poveri e ai marginali, ai migranti e ai ribelli, alle persone detenute nelle carceri e nei CPR, mentre è sempre più attivo nelle guerre guerreggiate con l'industria bellica, le missioni militari, le imprese neocoloniali, lo sfruttamento e la devastazione della terra e del vivente. Qua fuori la città di Udine, come molte altre, già mostruosamente militarizzata, videosorvegliata, blindata, è ora diventata una estesa zona rossa invasa dalle forze dell'ordine e dall'esercito, con una control room e un progetto comunale di istigazione alla delazione, detto sicurezza partecipata. Ecco dove vogliono portarci. Noi rifiutiamo di far parte di una società sottomessa che guarda un marchingegno illuminato mentre tutto va in rovina. Vogliamo invece guardarci attorno, metterci in mezzo, cogliere gli sguardi dei fratelli, delle sorelle, dei compagni e delle compagne e lottare insieme per continuare a lottare ancora e ancora. Quindi ecco, concludiamo dicendo di nuovo: sabato 15 febbraio, presidio solidale con i detenuti del carcere di Udine, musica, parole, saluti, urla di libertà e vicinanza. Smash their pressure, smash their door. E intanto stiamo ascoltando questa band scozzese, anzi band gaelica scozzese, loro sono gli Oi Polloi, band storica, che diciamo una band che si era formata lì proprio negli inizi degli anni 80, tipo 81-82. Sì, allora approfitto per ricordare che siete all'ascolto di Zernis Magnetics, che appunto va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30 circa su Radio Onde Furlane 90 MHz, e Radio Onde Furlane è la radio che ci ospita come appunto Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste, e come conduttori di questa trasmissione approfitto anche per salutare chi ci ascolta dalle frequenze di radiazione e di Radio Eustachio, appunto ci ascolteranno non oggi ma domani. Per domani venerdì, cioè sì, oggi per loro è oggi, per noi che siamo in diretta è domani. Va bene, allora abbiamo parlato del presidio che ci sarà sabato 15 febbraio fuori dal carcere di Udine. E continuando sull'argomento carcere, è importante secondo me dare notizia di queste ammutinamenti che ci sono stati nelle carceri siciliane, in particolare nel carcere Pagliarelli di Palermo c'è stato uno sciopero della fame portato avanti da 400 detenuti, e proteste analoghe ci sono state anche al carcere di Siracusa. Da cosa nascono queste proteste importanti? Da l'opposizione a un provvedimento a carattere regionale del DAP, e cioè una circolare che limita praticamente il contenuto dei pacchi che i detenuti possono ricevere dalle persone care. E questa limitazione riguarda alcuni alimenti e anche capi di abbigliamento. La motivazione di questa circolare del DAP che riguarda la regione Sicilia, la motivazione consiste nella riduzione del rischio di incendi Allora, quindi il DAP, sì, l'amministrazione penitenziaria dice che è in difficoltà ad amministrare e controllare appunto gli incendi. Quindi qua si aprono due cose, cioè gli incendi non dovuti, fortuiti, diciamo, dovuti a motivi, ma gli incendi che vengono, che possono venire scatenati dai prigionieri stessi, appunto, in rivolta. E, però che cosa succede? Queste limitazioni sono un grave danno per i prigionieri, per la qualità della vita dei prigionieri, in quanto ad esempio intanto chi può è costretto ad acquistare i generi di prima necessità all'interno nel sopravvitto, insomma, all'interno del carcere, con prezzi alle stelle, e quindi si pone anche una questione di classe. E inoltre però anche è una questione di deprivazione, diciamo, dell'aspetto affettivo, relazionale, no? Che un pacco che arriva in carcere porta con sé. E tra l'altro in questa esclusione, insomma, di prodotti che possono essere introdotti con i pacchi, ci sono tutte riguardo ai generi alimentari, ci sono tutte le cose, insomma, che prevedono una certa elaborazione nel cucinare, e nello specifico le farine, perché ne avevamo parlato anche a questi microfoni. Ad esempio, già al 41 bis avevano introdotto il discorso a Bancali, anche Alfredo Cospito ne era stato colpito, e la proibizione di introdurre farine, lieviti, e quindi diciamo elementi e alimenti che devono essere lavorati, in quanto viene detto dalla controparte che possono essere facilmente infiammabili, insomma, quindi la motivazione sarebbe questa, e combustibili e infiammabili. E certamente questo aspetto qui ha anche un elemento afflittivo, cioè palesemente afflittivo, nel senso che impedisce di fare anche di prodursi, diciamo, dei generi alimentari non schifosi come quelli che fornisce l'amministrazione carceraria. E un'altra limitazione riguarda appunto coperte e indumenti in pile, anche questi perché sarebbero altamente infiammabili. Quindi che cosa succede con questa circolare? L'amministrazione penitenziaria, per ridurre un rischio, cioè per lavarsi le mani, diciamo, dal dover affrontare un rischio, cioè come quello, il rischio di incendio, fa cadere sui prigionieri le conseguenze, insomma, di questa riduzione del rischio, ponendoli in una condizione di deprivazione ulteriore. E inoltre non solo c'è un aumento dell'aspetto restrittivo della detenzione, ma anche c'è un aumento della dipendenza dall'istituto detentivo stesso, in quanto viene limitata l'autonomia, diciamo, nella produzione, ad esempio, del cibo per sé. E queste proteste sono state importanti, è una questione importante, perché ad esempio a Siracusa questo provvedimento è stato emanato, questa circolare è stata emanata a dicembre, a Siracusa le proteste hanno fatto sì che c'è stato un accordo, diciamo, con l'istituto per una rimodulazione delle restrizioni, e quindi insomma sì, protestare ha sempre un esito importante e positivo. E va però anche diciamo queste forme di lotta che si sono verificate all'interno delle carceri siciliane, che comunque sì, che sono consistite appunto in battiture e poi appunto in questo sciopero della fame, forme di lotta che poi si sviluppano anche periodicamente, con una certa frequenza. Ultimamente poi abbiamo visto in tutto l'anno 2024 ci sono state tantissime manifestazioni di lotta all'interno delle carceri e anche dei CPR, continuamente ci sono, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Sì, diciamo che colpisce anche questa cosa, che queste forme, diciamo, di protesta, che sono poi forme di autodifesa e anche di, e sono anche strumenti di contrattazione con la controparte, e sono, diciamo, gravate in questo momento qua da questo rischio dell'approvazione del decreto sicurezza, perché anche queste forme di protesta e di autodifesa verrebbero sanzionate come reati che aggravano la pena. Quindi sì, questo dà l'idea, no, anche della, veramente della efferatezza di questo decreto sicurezza. E poi va detto anche un'altra cosa che segnalavano insomma gli attivisti di Antudo, questa associazione siciliana, rispetto al rischio suicidario legato ad esempio alle bombolette per i fornelletti, insomma bombolette di gas, a gas butano. E i compagni di Antudo segnalavano appunto che sì, ci sono stati nel 2024 un numero di morti per suicidio all'interno delle carceri, il più alto numero, diciamo, da quando c'è la Repubblica in Italia, oltre 80 morti, ma segnalavano che i tentativi di suicidio nel 2024 all'interno delle carceri sono 5 volte maggiori, cioè bisogna moltiplicare il numero delle dei morti per suicidio per 5 per avere i tentativi di suicidio, e questo dà l'idea proprio della situazione mortifera che è intrinseca all'interno del sistema carcerario. Tra l'altro stiamo ascoltando questa band di Melbourne, loro sono Emil and the Sniffer, ma più che altro ora volevo farvi ascoltare questa band italiana, loro sono gli Affluenti di Ascoli Piceno, ma comunque questi noi adesso li ascoltiamo da un album compilation che si chiama Inerzia della Catastrofe, e dove all'interno vi hanno partecipato il contrasto, appunto gli Affluente, la Tormenta, i Neid, i CGB e i Lud. Comunque noi ascoltiamo gli Affluente. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi. Le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Mai subire, mai chiedere, mai subire. La Ferratella occupa di sta roba del terremoto, qui bisogna partire in quarta subito. Non è che c'è un terremoto al giorno, eh? No, lo so. Non per dire, per carità, poveracci, ma. Vabbè, ciao. O no? Beh, certo, eh. Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbè. Ciao, ciao. Sì, e per continuare a parlare di carcere, io volevo leggervi alcuni brani, alcuni pezzi così di un documento che è stato scritto da Anna Beniamino, compagna anarchica che è detenuta a Rebibbia, e che si intitola Fisiopatologia del mostro carcerario, veleni e antidoti. La compagna ha scritto questo documento per il movimento anarchico cileno e difatti il documento descrive anche la situazione, diciamo l'ordinamento un po' penitenziario e anche le novità legate al decreto sicurezza che potrebbero essere introdotte, e le descrive appunto per compagni che non sono italiani, insomma che non conoscono nel dettaglio qui la situazione nostra, però poi ci sono anche molte altre riflessioni più generali. Allora, la Anna Beniamino inizia così. Storie di topi e di uomini. Nei laboratori di farmacologia si testano gli antidepressivi con un esperimento di crudeltà squisitamente umana. Si immerge un topo, drogato o nature, in un cilindro di vetro pieno per metà d'acqua e si calcola il tempo di nuoto disperato prima che sopraggiunga l'immobilità. Di solito il roditore, senza supporto psicotropo, cerca di arrampicarsi lungo il cilindro e saltare per 5 minuti prima di arrendersi. Gli antidepressivi allungano di qualche minuto i tentativi di nuoto disperato prima che sopraggiunga la rassegnazione. Tolto il cinismo che trasmette, il test di Port Salut o del nuoto disperato è un'allegoria utile a illustrare la situazione attuale delle galere italiche e dello stillicidio di suicidi e rivolte di quest'estate nelle sezioni comuni. Sovraffollate, fatiscenti, carnaio di convivenze forzate in spazi risicati, in una parola umilianti la dignità umana. Apatie e depressioni indotte da farmaci, la terapia onnipresente, tentativi di reazione disperata che assumono spesso forme autolesionistiche, egemonie da cortile, desolidarizzazione, risse infantili dove c'è un travaso continuo di suggestioni e modelli da fiction TV, che poi è il diversivo lobotomizzante che supera la terapia nel pervasivo echeggiare di cella in cella. All'infantilizzazione patologica dell'individuo, il carcere lavora in maniera metodica, privandolo, oltre che della libertà di movimento, di quella di scelta minima nel corso della giornata. Il regolamento idiota e incomprensibile, la burocratizzazione estrema di ogni minuzia della sopravvivenza quotidiana. Meccanismi spersonalizzanti e deprivanti la propria umanità, la cui applicazione serve essenzialmente a stabilire la pressione della struttura repressiva e la capacità di adattamento e di resistenza dell'individuo. vengono gestiti in maniera asettica, alimentando un tritacarne dove le reazioni possono coprire tutto il ventaglio tra l'apatia anestetizzata e la rivolta come affermazione di sussistenza in vita più che rivendicativa. E poi arrivando ai tempi di guerra, diciamo, all'analisi dei tempi di guerra. I tempi di guerra si accompagnano sempre a pratiche di controllo di piazza e di stampa, vista come il nemico interno da annichilire sul nascere. A volte questi tentativi riescono, a volte non fanno che rafforzare i motivi e i numeri di chi apre gli occhi. Nello specifico delle operazioni antianarchiche si era già assistito al cambio di passo avvenuto durante e dopo la mobilitazione per lo sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e con le operazioni Scriptamanent, Renata, Scintilla, Prometeo per arrivare alle operazioni Sibilla e Scripta Scellera, dove il target è la stampa anarchica tout court per il suo ruolo istigatorio e dove, come nel caso del tenace sciopero della fame di Alfredo, i giochi di prestigio giurisprudenziali hanno trasformato la stessa resistenza fisica, la pervicacia nel perdurare in vita dopo mesi di digiuno, in elemento istigatorio verso il movimento di solidarietà e quindi giustificatorio del suo permanere in 41 bis in quanto istigatore, cioè la maschera democratica è tolta, sei perseguibile come nemico interno, ostacolo al mantenimento dell'ordine a prescindere dai fatti, per il semplice fatto di esistere. In occasione della mobilitazione per Alfredo e contro il 41 bis, molto vivace, internazionale e multiforme, la gran cassa dei media ha mostrato un crescente morboso interesse, con strumentalizzazioni politiche, certo, ma con cortocircuiti comunicativi piuttosto interessanti. Fazioni politiche istituzionali, di governo ed opposizione, che litigavano in Parlamento e nei talk show televisivi sull'anarchico morente in regime speciale e di conseguenza, volontariamente poco o involontariamente molto, mettevano in evidenza le falle della narrazione imposta. Quella che è una tattica mediatica attuale di sovraesposizione e annullamento viene applicata metodicamente a queste latitudini e non credo solo qui. Si pensi a livello globale a quanto sta avvenendo sul genocidio del popolo palestinese in diretta TV, ora declassato a normale amministrazione dell'orrore, con conta giornaliera dei bambini morti, degli ospedali bombardati e dei superstiti morti per fame. O alla conta giornaliera dei suicidi in carcere, in agosto un leitmotiv dei TG italici, ora nell'oblio. Questo alternarsi tra martellamento mediatico e oblio viene comunque interrotto dall'irruzione della realtà, dalla capacità dei fautori della guerra sociale a quest'ordine imposto di spezzare lo schermo dipinto. La ribalta mediatica è reversibile in un attimo, ma i riflettori che si accendono e spengono a intermittenza non dovrebbero abbagliare i refrattari e interrompere la continuità delle lotte. Un contesto apocalittico e straniante come quello descritto fin qui, non è difficile trovare i motivi per lottare, ma piuttosto quali scegliere per primi e come portarli avanti con continuità senza farsi prendere da quei meccanismi che pervadono la società tutta, dentro e fuori, di apatia, memoria corta e amnesie, volontarie o indotte che siano. La sensazione di una lotta impari e senza sbocchi paralizza certo, eppure qualche volta la minoranza anarchica riesce a darsi un ritmo adeguato, qualitativo se non quantitativo, che non è solo testardaggine da refrattari, ma qualcosa che porta a risultati tangibili, parziali o di maggior respiro, che non sempre riusciamo a cogliere nell'immediato, ma che ci sono. Parto, per semplificare il discorso, da due esempi personali che mi hanno dato comunque una prospettiva di cambiamento, di intervento attivo, non di inerzia rispetto alle imposizioni della cattività. Nel corso di questi anni di carcere mi è capitato di portare avanti due scioperi della fame di discreta lunghezza, consapevole dei limiti dello strumento e nello stesso tempo della razionalità di questa opzione in galera. Il primo sciopero a cui, insieme a me e ad altre due anarchiche all'Aquila, dove eravamo state trasferite in una nuova sezione di S2 e dove volevano imporre un trattamento sovrapponibile per alcuni tratti al 41 bis, avevano aderito altri compagni anarchici in carcere, accompagnati da una mobilitazione di area anarchica fuori. Il secondo, sicuramente più conosciuto, nell'accompagnare il primo tratto del lunghissimo sciopero della fame di Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. I risultati ci sono stati comunque, in parte simili, in parte diversi. Nel caso della S2 femminile dell'Aquila si è arrivate dopo un mese di digiuno a un primo trasferimento, quindi all'effettiva chiusura della sezione nel giro di un paio di mesi, rendendo palese la difficoltà dell'amministrazione penitenziaria a gestire la situazione sia a livello burocratico locale che a farsi carico degli effetti di una mobilitazione che portava l'attenzione su di un carcere come quello dell'Aquila, fortino del 41 bis nascosto sulle montagne. Nel caso dello sciopero su 41 bis ed ergastolo ostativo si è avuto un parziale risultato positivo sugli obiettivi specifici, ma una sconfitta sulle condizioni di detenzione di Alfredo, con un suo permanere in regime 41 bis, giustificate, tra virgolette, dal successo della mobilitazione stessa. Però si è arginato un progetto repressivo di più vasta portata, sia sul processo singolo scriptamanent che sull'allargamento delle strategie antianarchiche. Si è riusciti a irrompere per un tempo non indifferente nella narrazione mediatica censoria, con un buon livello di mobilitazione italico e internazionale, mettendo sul piatto la realtà dei fatti. Sentire Alfredo che dal fondo di una cella in videoconferenza, nell'unico momento possibile, ironizzava durante le udienze sull'incoerenza assassina del finto garantismo sbandierato dai vari gaglioffi di governo era ed è un messaggio non recuperabile. Vedere i media imbarazzati a dover sostenere che sti anarchici avessero una condanna all'ergastolo o a 30 anni per una strage politica di cui nessuno aveva traccia e quindi implicitamente che tutta l'impalcatura puzzasse più di vendetta politica e silenziamento contro l'area anarchica piuttosto che di ordinaria gestione di un caso giudiziario, veder parlare di carcere e 41 bis dopo che per anni erano stati un tabù, polvere da nascondere sotto il tappeto, vedere qualche crepa nel monolite, a qualcosa è servito e servirà. La stessa critica che attualmente è in atto sulla svolta autoritaria in corso e sul collasso del sistema carcerario risente, che piaccia o meno, di aver fatto uscire dagli ambiti ristretti di movimento argomenti scomodi e spinosi. Ovviamente gran parte dell'indignazione democratica si indigna per poi passare velocemente ad altro argomento con medesima sterile indignazione, ma qualcosa resta, tra cui la capacità degli anarchici di rigenerarsi e acquisire nuova linfa, di non invecchiare, di intervenire in contesti diversi. Da anarchici siamo sempre bravi a buttarci nella lotta, in momenti rivoluzionari o meno, spesso precorrendo i tempi, siamo però pessimi gestori sulla lunga distanza, c'è da ragionarci. Il fantasma della rappresentanza, della delega, a volte paralizza ed è giusto avere sempre le antenne dritte a captare e combattere i rischi di strumentalizzazione politica o di meccanismi autoritari, ma senza scadere in autolesionistiche cadute di stima e di tensione funzionali solo alla controparte. Richiamare a una certa continuità, reimparare ad avere una certa costanza nella lotta e nella discussione senza fossilizzarsi, credo sia il primo esercizio di pensiero critico. Se poi qualcuno la voglia classificare come istigazione, sono i rischi del mestiere anarchico. Anna Rebibbia, ottobre 2024. Eccoci ancora per questi spiccioli finali di Zardins Magnetics. Prima dei saluti, io vorrei ricapitolare i prossimi appuntamenti nelle queste zone, insomma, da cui trasmettiamo. Quantomeno ribadirvi che sabato 15 febbraio a partire dalle ore 15 saremo fuori dalle mura del carcere di Udine in via Spalato per una presenza solidale con i detenuti in lotta per varie ragioni, insomma, e di così anche in solidarietà con i loro affetti e i loro familiari. E inoltre altra iniziativa che mettiamo così in riscaldamento, in qualche maniera stiamo già pronta, insomma, importante, che, su cui ritorneremo, ma siccome poi si accavalleranno le cose, cominciamo già oggi, sabato 22 febbraio, quindi sempre a Udine, però nello spazio autogestito di via Terubeis, un incontro di informazione, dibattito, agitazione, quant'altro sui prigionieri in lotta di Palestina e Libano. Sarà videoproiezione a partire dalle ore 18, videoproiezione di un filmato che si intitola Beyond the Walls, dietro le mura, e il titolo dell'iniziativa sarà Dall'Europa alla Palestina al fianco dei prigionieri in lotta, appunto, in via Terubeis a Udine, sabato 22 febbraio, videoproiezione e benefit, cena benefit a seguire, cena benefit per le spese legali sostenute per un procedimento, per fortuna, diciamo, conclusosi così, insomma, già concluso, ma comunque ci sono state delle spese legali per George Ibrahim Abdallah, e prigioniero, componente, già guerrigliero, insomma, delle frazioni armate rivoluzionarie libanesi degli anni 80, da allora prigioniero nelle carceri francesi, e quindi appunto c'è stato questo procedimento al Tribunale di Trieste per sempre una vicenda risalente all'84 e quindi, ecco, ribadiamo l'appuntamento per questa iniziativa in solidarietà con i palestinesi, con i prigionieri palestinesi, libanesi, e, insomma, ex, cioè quantomeno, insomma, arabi, ecco, perseguitati dallo Stato sionista, perseguitati, messi in prigione. È un filmato che descrive appunto la realtà quotidiana dell'esperienza carceraria di queste persone, insomma, anche sì, di tutte, insomma, le varie, lo spettro, insomma, del contrasto, della lotta contro l'oppressione coloniale di Israele. È un filmato appunto di una dozzina d'anni fa, però lo stesso, insomma, importante per rinvigorire, ecco, questo parallelo tra paradigma di segregazione di Israele e quello che viene fatto, come abbiamo sentito prima, in Europa, ecco, capofila d'Italia con questo modello pilastro, insomma, della carcerazione, che è il 41 bis, la massima deterrenza, che viene studiato ed esportato in varie, anche oltre Alpi, insomma, e oltre l'oceano. Ho detto tutto, mi sembra, su questa iniziativa. Appuntamento, insomma, ci vedremo spesso, spero, in prossime occasioni. Un saluto per questa sera, io ho finito. To terror when all else fails, the prison's not full of rich white males. We're more than scared by the men at the top. We're talking to each other and we're pissed off. Pissed off with the thorny side of our eyes, the innocent people in far off lands who died for the creed or revenge of a few who say we have no choice in what we must do. The empty reasons about defending freedoms are just never ending. Streams of blood to justify complete control of the people's lives, or at least the global oil supply. A re-election when the polls run by, a place in history when you die. This is war. This is. Bene, adesso così in questo cambio di brano dico anzi che quelli che sono in sottofondo è una band storica inglese, loro sono i Subhumans, band tuttora esistente, band che si è formata nel 1980, ha fatto uscire un buon numero di album. E l'album, cioè l'album, i brani che noi stiamo ascoltando ora sono tratti dal loro Internal Riot, uscito nel 2007. Poi anche così volevo ricordare alcuni due band che abbiamo ascoltato prima durante gli interventi, in ordine cronologico dell'ultima mezz'ora abbiamo ascoltato gli Infame, band spagnola di Barcellona, e anche i Zyklone, che è una band invece un po' statunitense messicana, e i componenti sono un po' abitano alcune centinaia di chilometri di distanza tra loro, comunque hanno fatto uscire alcuni dischi. E rimaniamo all'ascolto dei Subhumans. Ecco, il brano è già finito, quindi come prima nuovamente faccio un intervento dicendo che siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30, anche oggi in diretta, appunto giovedì 13 febbraio. E altra cosa, che questa trasmissione ovviamente, come già detto, grazie agli interventi dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e appunto dato che siamo al termine ricordo i nostri contatti. Chi volesse scriverci può farlo anche tramite posta elettronica, scrivendo intestando a liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti chiocciolaautistica.org oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Questo lo dico in particolar modo, questi due contatti, chi volesse scriverci anche per scrivere per i soliti insulti, questo lo dico perché sta continuando a suonare il telefono ma noi non possiamo rispondere, probabilmente vorrà contattarci dopo i vari interventi che abbiamo fatto, ma chi se ne frega. E poi ricordo che anche questa trasmissione la potete riascoltare in replica, o comunque a parte questa ma anche tutte quelle delle volte successive trascorse andando sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, inoltre potete anche riascoltare domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17, perciò salutiamo tutti e al prossimo giovedì e vi lascio con questo ultimo brano dei Subhumans.